un passo indietro. I refrattarios sono arrivati nella casa bunker ricavata nei quartieri del centro e dove finalmente possono riabbracciare Toma. La torre M verrà assaltata dai rivoltosi esattamente un'ora dopo. E gli altri due? Gli altri dove sono? Toma conta il gruppo e si rende conto immediatamente che manca qualcuno. Morti, risponde Aki dalla branda con un tono molto basso e una voce molto stanca. Aspettate, non mi tornano i conti. Chi oltre ad Almi? Valerie, avete trovato Valerie? Sì, abbiamo avuto la fortuna di rivederlo 24 ore prima che morisse. Uno scontro armato con quei sorci di merda? No, abbiamo attaccato e distrutto il villaggio dei Tarspok e lui è rimasto ferito gravemente, dopodiché ha deciso di... Ecco cos'era il botto sottoterra. Dai su, rimettetevi in sesto, c'è del cibo in frigo, fate alla svetta che entro mezz'ora dobbiamo scendere perché è arrivata voce di rinforzi da parte del governo e la gente è fuori dalla torre M pronta per assaltarla. Poi Toma, rivolgendosi ad Aki: a te diamo la poppata, ferito? La frase è accompagnata da una risata. Ah, ah, ah, portami però tua sorella, Toma, a farmi dare la poppata. E ti pareva? Atin, con un tono scocciato, sbuffa alla frase di Aki. E ti pareva che non rispondesse madre Teresa di Calcutta? È la risposta secca di Aki. Vaffanculo. Sigla finale, titoli di coda e classico di end da parte tua, Atin. Aki si alza di scatto dalla branda e si dirige verso il frigo, ma a metà percorso ha un mancamento. Il refrattario sviene e batte la testa sul pavimento. Il primo a soccorrere è Mark, che insieme a Toma e Coram prendono Aki e lo distendono sulla branda. A febbre altissima, cazzo! Atino con la mano poggiata sulla fronte di Aki è preoccupatissima. Sicuramente per l'infezione all'occhio ci vorrebbe qualche antinfiammatorio o una buona pulizia della ferita. Ashlen aveva praticato uno di quei corsi di sopravvivenza, ma non aveva nulla per disinfettare e medicare per bene il suo compagno. Qui non abbiamo niente per curare i feriti, anche perché a poche decine di metri c'è l'ospedale, risponde Toma. Allora dobbiamo portarlo urgentemente all'ospedale. C'è pericolo che però ora è l'ospedale assediato all'esterno del Tarspok, dio maiale. Troviamo una soluzione del giro di pochi istanti e dire che abbiamo lasciato tutto l'occorrente di pronto soccorso su Vesuvio, cazzo. Rose dà un colpo al tavolo con i pugni. Siamo in 15 in tutto. 3 portano Aki all'ospedale, uno forte che se lo carica in spalla e 2 che coprono le spalle da eventuali attacchi di quelle merde. Beppe prende la situazione per il polso e fa la sua proposta che viene accettata da tutti. Coram, che aveva sempre fatto il boscaiolo, non si perde d'animo e si carica sulle spalle Aki immediatamente. E allora chi viene con me? 2 ribelli, che erano già nella casa all'arrivo dei refrattarios, si propongono per accompagnare Coram ed Aki all'ospedale. Tutto ok, ci vediamo là fuori la torre M, e se nel frattempo sarà accaduto qualcosa che vi ha portato a spostarvi, ci rivediamo qui, in questa casa. Coram sembra quasi che non sente il peso di Aki sulle spalle, mentre con molta calma cerca di mettersi d'accordo con gli altri ribelli. I 4, Coram, Aki e 2 ribelli, escono dalla porta e scendono le scale, seguiti con lo sguardo da tutti gli altri. Beh, a questo punto io direi che possiamo anche prepararci per andare alla torre M. Toma è quasi impaziente di recarsi nel pieno della rivolta. Non vedo il motivo che ci spinge a rimanere ancora qui, gli fa eco Mark. E allora prepariamoci alla meglio, rimaniamo uniti almeno fino alla torre M, poi lì sarà quasi normale che ci perdiamo di vista in mezzo a tanta gente, ma diamoci almeno dei punti di riferimento una volta arrivati sul posto. Beppe, che ha più esperienza, continua a dare consigli. Beppe, e dopo? Risponde Mark. E dopo cosa, Mark? Dopo che finirà tutto, che avremo distrutto tutto, cosa si fa? Si ricostruirà tutto in modo diverso da ora. Col cazzo! Mark per un attimo si fa serio sotto lo stupore generale del resto dei refrattarios e degli altri ribelli non politicizzati. Poi scoppia in una grossa risata, ma nemmeno tanto convinta. Ricostruire, con altri poteri, altre autorità, altri tribunali e altre carceri. Al limite rosse, vero? Beppe non digerisce proprio bene le parole di Mark, anche se dette con tono sarcastico. Mark, fai il cazzo che vuoi dopo. Con Valeria abbiamo fatto una rivolta a Carcelia e dopo ci siamo salutati e siamo andati ognuno in direzione opposta. Potrebbe essere anche questa volta così. Ma intanto muoviamoci. Sempre per malosi e seri voi rossi. Oh, è giù un'altra risata da parte di Mark. Dai Mark, non rompere le ovaie e muoviamoci. Ashlyn prende per il gomito Mark a mo' di su muoviti. Dove mi porti di bello, Ashlyn? E la caglie, coglione. Thank you. E allora, abbiamo iniziato subito con una caduta di connessione classica. Benvenuti. Giusto per farci prendere quota subito con la diretta d'azione. Quindi non lo so se è andato in onda pure la lettura di Nazero 13, nel caso, comunque come tutte le volte in cui cadono le connessioni, la parte verrà registrata domani mattina. Domani mattina. E sul podcast ritroverete. E sul podcast trovate tutto quello che manca durante le cadute di connessione, che subito, immediatamente. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@dc.org, per chi vuole mandare a qualsiasi tipo di materiale da poter far pubblicare sul sito di radiazione. Lo ricordo di attenersi alle indicazioni, indicazioni. Anche regole le mettiamo noi, ci frega un cazzo, finché ce le mettiamo noi va bene. Prima di mandare materiale, vedetevi le indicazioni su cosa verrà pubblicato e cosa non verrà mai pubblicato. Alla mail potete mandarci anche qualche consiglio sui libri da leggere su radiazione. Allora, oggi mi ero dimenticato di dire, è un lunedì, non è lunedì, è martedì, ma è lunedì. Per noi tutte le volte si fa lettura il lunedì, a prescindere dal giorno, come andiamo noi, non c'è nessun calendario preimpostato. Solo il meteo, il meteo è sempre uguale, ci segue, quindi sembra la nuvoletta grigia fantoziana. Rassicurante. Oramai è diventata una cosa che noi ci preoccupiamo quando c'è il sole di lunedì, quando c'è il grigio va tutto ok, tutto bene. A parte quando si cade con la connessione subito all'inizio della diretta. Quindi dicevo, alla mail chi vuole può mandare anche consigli su libri da leggere nelle letture di radiazione, che vanno in onda tutti i lunedì come da programma. Ricordo che non sono testi anarchici, bensì romanzi, ma comunque con delle tematiche bene o male affini, qualche argomento affine anche alle cose che vengono pubblicate su radiazione. In particolar modo Nessuno ci salva, dopo ora iniziato. Stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergius Piasecki, storia di ladri dritti e merli in Russia a metà del secolo passato. Ora poi, allora, invece radiazione, il sito è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast e dove potete scaricarvi anche un bel po' di materiale nella pagina di download, tutto materiale che ci mettono a disposizione i compagni, opuscoli, libri, manifesti, anche cd musicali. Insomma, un bel po' di materiale che trovate là nella pagina di download da scaricare gratuitamente. Però lo ricordo, chi, se poi gli viene voglia di stampare questo materiale e di diffonderlo, un benefit ai compagni detenuti, andare ad alimentare le casse di solidarietà per i compagni detenuti, perché lo scopo è questo, non si mette un prezzo, però sarebbe a chi scarica e diffonde il benefit. La radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione a compagno di Anarchist Library, che ringraziamo e salutiamo sempre. Ora mi sono dilungato anche troppo. Ci ascoltiamo un brano dei Bennes Propaganda, non vi dico il titolo perché è in cirillico, e nessuno, perché sono macedoni, quindi scrivono in cirillico. E poi dopodiché si parte subito con Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Сложно брать твой дюбриня, а потребовать кесарь. Nello stile dell'alta scuola ladresca. Da due giorni Ahur gironzolava per le vie di Minsk e coi suoi occhi grigi eternamente socchiusi in cui guizzavano bagliori metallici osservava le case e gli uomini penetrando nel loro interno con la seconda vista del suo sottile intuito di uomo vissuto sempre in mezzo ai rischi e abituato a trarre da ogni nuovo ambiente in cui la vita lo portava il massimo profitto. Era un infaticabile cacciatore di tesori, Ahur, e li cercava dovunque si trovassero, nelle casseforti blindate d'acciaio, come nelle anime degli uomini. Amici veri e propri non ne aveva, essendo rimasto troppe volte scottato dalla slealtà dei suoi simili. I suoi collaboratori se li sceglieva di volta in volta tra i colleghi del mestiere, o talvolta persino tra i merli. Era estremamente parco di parole. Lo sguardo e i gesti erano per lui mezzi espressivi altrettanto efficaci quanto la viva voce. I suoi occhi penetranti, le sue mani agili e nervose bastavano spesso a svelare i suoi più intimi pensieri. Aveva un aspetto piuttosto distinto. Era alto, slanciato, sempre ben vestito. Nervosissimo per natura, sapeva però dominarsi e punta di ferro. Nel mondo dei dritti, Ahur godeva la fama di scassinatore eccezionale, uno dei migliori d'Europa, e aveva conosciuto le galere della Russia, della Germania, della Francia e della Romania, dove si recava di tanto in tanto per fare qualche colpo in grande stile, sempre dopo averlo meticolosamente preparato. Benché non avesse avuto alcuna istruzione, parlava con scioltezza diverse lingue e aveva accumulato durante la sua vita avventurosa un non comune patrimonio di cognizioni. E prima di darsi alla malavita aveva esercitato il mestiere di meccanico e poi quello di elettricista. Si era trovato per la prima volta in gattabuia per ragioni politiche, accusato di appartenere al Partito Socialista Rivoluzionario perché nella sua stanza erano stati rinvenuti degli opuscoli di propaganda. Egli non rivelò il nome del compagno che gli aveva dato gli stampati e asserì di averli trovati per la strada. e rimase poco tempo in carcere, ma riacquistata la libertà non riuscì a trovare lavoro e allora lasciò Kalisz per Varsavia, dove trovò posto di aiuto elettricista. Ma la sfortuna lo perseguitò anche nella capitale. Di nuovo venne sospettato di aver rubato del denaro in un appartamento dove si era recato a riparare l'impianto elettrico. Il denaro, in realtà, l'aveva preso una persona di servizio approfittando del fatto che in casa si trovava un estraneo. Venne perquisito e nelle sue tasche fu rinvenuto del denaro che il derubato pretese di riconoscere come proprio. Tuttavia, non esistevano prove serie contro di lui ed egli sarebbe stato certamente rilasciato, o alla peggio se la sarebbe cavato con una lieve condanna, se il fatto di avere la fedina penale sporca non avesse prevenuto nei suoi riguardi il giudice, e quindi fu condannato a 2 anni. Quando uscì, si trovò ad affrontare di nuovo lo stesso problema della prima volta, la disoccupazione. E nonostante la sua buona volontà, non venne assolutamente a capo di nulla, riducendosi in breve nella più nera miseria. Per la terza volta si trovò rinchiuso in una cella, questa volta però giustamente perché, approfittando della sua abilità di fabbro, si era introdotto a scopo di furto in un appartamento ed era stato sorpreso con le mani nel sacco. Quando il terzo periodo di reclusione finì, Ahur non pensò nemmeno più a vivere con un lavoro onesto. Sapeva che tutti ormai l'avrebbero trattato da delinquente e che nessuna forza al mondo avrebbe mai convinto la società che le sue colpe erano state minime. E invece dell'operaio decise perciò di fare il lato di professione, tanto più che come meccanico specializzato aveva molta pratica di chiavistelli, serrature e catenacci. Adesso Ahur aveva quasi 50 anni, era abilissimo nel cambiare i propri connotati e nel falsificare i passaporti. Eseguiva le imprese più difficili con una tal maestria da rendersi inafferrabili e più sagaci detectives. I suoi compagni lo chiamavano Ahur perché egli usava dire che i più solidi ripari eretti dall'ipocrisia umana erano per lui come ricami fatti appunto à jour, attraverso i quali egli era visibilissimo tutto ciò che vi si celava dietro. Io non vado mai alle apparenze, soleva dire, guardo alla realtà che dietro queste si nasconde. E benché Ahur fosse tutt'altro che loquace, aveva una vera passione per il rischio. Aveva imparato a fischiare in carcere quando era confinato da solo in una cella. Il regolamento proibiva al detenuto di cantare, di gridare, di far chiasso e persino di parlare ad alta voce, ma ai fischi non faceva il minimo accenno. E tuttavia, per non inimicarsi i carcerieri, Ahur fischiettava pian piano e col tempo divenne così abile da eseguire a perfezione i più difficili motivi. Quando imitava l'usignolo, nessuno avrebbe detto che fosse un uomo a lanciare al cielo quei tremolii e quei trilli da virtuoso. Nella sua vita burrascosa aveva imparato a infischiarsi di tutto, della reclusione, dei suoi simili che giudicava un branco di sciacalli e della vita stessa che, secondo lui, era del tutto priva di senso. Arrivato a Minsk, trovò subito fra i dritti delle vecchie conoscenze fatte nelle prigioni della Russia zarista. Tuttavia non entrò in stretti rapporti con loro, né andava mai a bere o a divertirsi in loro compagnia. Nessuno lo aveva mai visto nei ritrovi frequentati dalla mala. Abitava quasi in centro, in un piccolo ma accogliente alberghetto che si chiamava Novorossiysk. Sulla scheda delle generalità aveva scritto commerciante e difatti aveva aperto da poco un negozio di giocattoli vicino al cinema Lux. Poi mise un'inserzione sul giornale per trovare una commessa di fiducia e si presentarono donne di ogni età, non poche, delle quali erano molto giovani, carine ed eleganti. Ma la scelta di Ahur cadde su una ragazza silenziosa, magra, piuttosto bruttina e non più giovanissima, alla quale affidò completamente il negozio. Da quel giorno non si immischiò che assai raramente nel lavoro che essa svolgeva e tuttavia il primo mese di esercizio diede degli utili rilevanti. La commessa aveva messo su la vetrina con vero buon gusto e sistemato con molto decoro anche l'interno. Faceva le ordinazioni alle ditte che davano la merce a credito o la lasciavano in deposito. Insomma, invece di trovarsi di fronte a un deficit che d'altra parte si aspettava e che rassegnatamente avrebbe accettato, Ahur dovette constatare che il negozio si dimostrava un affare assai profittevole. Dopo 2 mesi, durante i quali si fece vedere ben di rado il negozio, si rese conto che la merce depositata nel retrobottega superava in valore di almeno 5 volte quella che vi si trovava inizialmente, mentre egli non aveva più sborsato un soldo oltre al capitale. E incurde più spesso a verificare il libro mastro, guardando di sottecchi con occhio assai più benevolo la sua commessa. E la ragazza, di solito così calma e sicura di sé, si sentiva turbata e quasi impaurita dalla sua presenza. Non riusciva a capire il perché di quegli sguardi scrutatori che le penetravano fino in fondo all'anima. A volte le pareva che gli occhi del suo principale la spogliassero, non solo nelle vesti, ma addirittura nella sua stessa carne. Era come se egli sorvegliasse il meccanismo che governava i moti e le reazioni del suo corpo. Dopo un po' di tempo, incominciò ad evitare il padrone, arrossendo non appena questi le rivolgeva la parola. Preferiva quando si metteva a fischiettare, anche se in principio aveva trovato questa sua abitudine irritante e quasi offensiva. Del resto, le rare conversazioni che tenevano erano così strane che in seguito la ragazza si perdeva in supposizioni senza riuscire a trovare una risposta alle domande che le affollavano la mente. Quando si era presentata a lui la prima volta all'albergo, egli le aveva chiesto con tono che dimostrava che la sua domanda era oziosa perché già sapeva quale sarebbe stata la risposta. «Lei è di origine nobile, è vero?» «Sì». «Parla bene le lingue?» «Sì». «Ma non ha mai fatto la commessa?» «Mai!» «E non importa, imparerà. Fissi lei stessa lo stipendio secondo le sue esigenze. Non firmeremo nessun contratto. Da domani può iniziare il suo lavoro». Le disse l'ora in cui doveva presentarsi in negozio e le porse la mano per congedarla. «Ah, un orologio?» «No, eccone uno, lo prenda». E tolse al cassetto del comodino un orologio da polso, nuovissimo. La ragazza, evidentemente sorpresa di quel gesto, accennò a voler parlare, ma Ahur le troncò la protesta sulle labbra. «Non si può lavorare senza saper l'ora. Glielo farò pagare a poco, trattenendole qualcosa sullo stipendio». Stupita, la ragazza uscì mentre Ahur, seduto davanti a un tavolo, fumava zufolando soddisfatto un'arietta. Era sicuro di aver fatto un ottimo acquisto assumendo quella donna come commessa. L'indomani, dopo l'apertura del negozio, Ahur tirò fuori il portafoglio e ne tolse 1000 rubli. Trascrisse questa somma sul libro mastro della rubrica varie, giustificandola con lo scrivervi accanto pubblicità, e consegnò il denaro alla commessa e le disse: «Si faccia fare qualche abitino nuovo, qualcosa di grazioso». Anche questa volta lo stupore si dipinse sul volto della ragazza, tuttavia non osò protestare, le parole le morivano sulle labbra in presenza di quell'uomo, ma pochi giorni dopo comparve, invece che con il suo solito abituccio rammendato e dimesso, con un elegante tailleur e un paio di scarpette nuove. Appena entrò il principale, gli consegnò il resto della somma, ma egli non l'accettò e, tra una fischiettina e l'altra, le disse: «Si compri anche un paltò della biancheria, insomma tutto ciò che le occorre. Quei 1000 rubli sono una spesa di cui non deve rendermi conto. Gliel'ho già detto, la considero una forma di pubblicità come un'altra». Quando l'aveva assunta, Huro non le aveva neppure chiesto il suo nome. Solo in seguito, dovendo assentarsi per qualche tempo, le domandò come si chiamasse. «Maria Antonovna Zapolska. È polacca?» «Sì». «Anch'io sono polacco, di Varsavia. Non ha più i genitori?» «No, sono morti a Mosca, in prigionia, di tifo». Allora lui si rabbuiò per qualche tempo e tacque. «Anch'io non ho più nessuno in Polonia». Rimase a lungo silenzioso, poi, come riscuotendosi da un pensiero che lo assorbiva, si alzò, guardò la commessa con quel suo sguardo strano e dopo un cenno di saluto si avviò verso la porta. «A proposito», disse con la mano sulla maniglia, «dimenticavo di dirle che la lascio qui sola per una settimana, parto domani. A delle disposizioni per il negozio, finora secondo il suo criterio». Passò una settimana, ma Ahur non si fece vivo. La signorina Zapolska, approfittando della libertà di azione, organizzò la vendita di articoli di cartoleria accanto a quella dei giocattoli, ma dopo una decina di giorni l'assenza del padrone, prolungata oltre il limite che egli stesso aveva fissato, incominciò a destare in lei qualche preoccupazione. Veramente, anche quando egli era in negozio, la ragazza si sentiva impacciata e un po' inquieta, soprattutto per quel suo modo di guardarla e per il suo assoluto disinteresse circa l'andamento degli affari. Ma ora, che non lo vedeva più da tanti giorni, incominciava a sentire la mancanza di quei suoi strani sguardi e di quella tacita approvazione per tutto ciò che faceva, approvazione che la stimolava infinitamente più di quanto non avrebbero fatto i continui incitamenti di un principale esigente. Maria si accorse che appena smetteva di pensare alle solite faccende, i suoi pensieri si svolgevano spontaneamente al suo enigmatico padrone. Passati altri 3 giorni, entrò nel negozio un signore anziano e le chiese: «È questo il negozio del signor Edoardo?» «Sì». E allora lo sconosciuto le consegnò una lettera e posò sul banco un pacco piuttosto voluminoso, strettamente legato. «Mettete via questo pacco, per piacere, si tratta di strumenti di precisione assai costosi». «Va bene». L'uomo salutò e uscì. Maria lacerò in fretta la busta. Vi erano 5.000 rubli per acquisti di merce, scriveva il padrone che annunciava il suo arrivo tra 15 giorni circa. La ragazza si mise l'animo in pace e si dedicò con zelo rinnovato al buon andamento del negozio. E questi erano Black Eyes, Someone Has His Fingers Broken, dopo la prima lettura di oggi per quanto riguarda Nessuno Ci Salva di Sergio Spiaseschi. E ora, come di consueto, passiamo alla controinformazione. Lo ricordo, nei lunedì si alternano la lettura e la controinformazione. La controinformazione, andiamo in Messico perché c'è un testo del compagno Carlos López Chivo, il compagno che è stato arrestato più di un anno fa insieme alle due compagne Amelie e Fallon. Allora, il testo di Carlos è un attimo una critica a un certo movimento anarchico in Messico, non tutto ma una parte. Allora, attualmente è un periodo di forte tensione in parte del paese, il malcontento che individui e gruppi hanno contro lo Stato capitale si sta estendendo, creando così un contesto idoneo per continuare la nostra lotta per la liberazione totale. Viviamo una presunta democrazia nella quale i suoi rappresentanti raddoppiano gli sforzi per consolidare un'inesistente pace sociale che in pratica non è altro che maggior controllo e dominio sulle nostre vite. Ma è proprio per questo, questo stesso controllo che genera odio e risentimento e che presto o tardi esploderà in rivolte. Possiamo vedere che siamo di fronte a un governo che si è sentito vulnerabile e a cui fa male vedersi momentaneamente superato dalle azioni di quelli e quelle che combattono la sua oppressione e a cui fa terrore che il conflitto si generalizzi per dare il passo verso l'insurrezione sociale. In tutto il paese avvengono decine di assassini e ingiustizie, di casi isolati che non hanno l'appoggio mediatico né la forza sociale per provocare il livello del conflitto, e questo ci fa pensare che continuiamo a preferire lo spettacolare e il quantitativo. Il conflitto più recente in questo senso è il caso di Ayotzinapa, lo stesso che ha fatto da detonante per una serie di sommosse avvenute in differenti punti del paese per via della desaparizione di 43 studenti normalisti. Decisione presa dalle sfere del potere governativo e che ci dimostra che la guerra sucia, la guerra da sporca, non è qualcosa del passato, ma anzi continua ad essere una pratica che prevale, come si dimostra in Chiapas, Atenco e Osaka. Fiumi di informazione scorrono quotidianamente riguardo il tema di Ayotzinapa, in cui si spettacolarizza sull'incerto destino dei ragazzi. Così poco posso solo dire che la sparizione dei 43 studenti avviene in un contesto complicato, in cui sono stati tanti fattori che hanno contribuito a provocare questa situazione. Le dispute tra i cartelli della droga che agiscono nella zona per il controllo della piazza dell'oppio e la marijuana, i quali vedono nel traffico di droga un mezzo per acquisire non solo armi e soldi, ma anche potere e prestigio per la realizzazione del loro obiettivo. Ciò al tema della politica, infatti, come sappiamo bene, i rappresentanti della democrazia sono collusi con le mafie per aumentare il loro potere politico ed economico, dando vita a questo. Oltre, esistono storicamente gruppi politico-militari che hanno la loro base sociale in questa regione, lo stato di Guerrero. Noi, individualità contraria a tutti i tipi di autorità, non possiamo accettare nessun potere visibile o di fatto e allo stesso modo mostriamo la nota di assassinio o desaparizione per motivi politici o interessi mafiosi. La desaparizione di 43 normalisti ha avuto una certa diffusione nell'opinione pubblica e nei mass media, dando vita al movimento di Todos Somos Ayotzinapa e scatenando una serie di manifestazioni di protesta, incontri, criticato per la sua inefficienza. Comitati cittadini chiedendo che le dimissioni del presidente fascista di Peña Nieto, familiari e amici esigendo la presentazione con vita dei loro cari e portando gran parte della lotta sulla via della legalità, tutto a Guerrero e a Città del Messico. Personalmente solidarizzo con il dolore che senza dubbio sentono i familiari dei desaparecidos, infatti non è per nulla facile la situazione che stanno vivendo e mi sembra ovvio che si riferiscono alle autorità per chiedere giustizia, non avendo posizioni anarchiche, che la maggior parte del movimento preferisce manifestare in maniera pacifica e non violenta. Quello che non posso accettare è che questo stesso movimento o una sua parte segnali o arrivi a consegnare compagni che decidono di utilizzare metodologie illegali. Dalla mia prospettiva anarchica considero che il pacifismo è una lotta facilmente recuperabile dallo Stato, oltre ad essere opposta ai nostri principi. Noi non pretendiamo carcere per nessuno, anzi lottiamo per la distruzione delle prigioni perché la consideriamo inutile. Per l'anarchico barcamenarsi in questa società non presuppone nessuna realizzazione, ma una costante tensione che cerchiamo di estendere in tutti gli ambiti delle nostre vite. Per questo dobbiamo essere attenti alle nostre prese di posizione e sapere portare avanti una lotta al fianco di coloro che si ribellano, però senza abbandonare le nostre convinzioni, senza cercare di essere accettati né ben voluti e tantomeno riconosciuti. Per esempio, appoggiamo la rivolta sorta in seno ai fatti di Azinapa, però non cadremo in metodi o forme distanti dalle nostre, lasciandoci condurre dalla corrente. Noi tutti siamo Ayotzinapa, ci impegniamo ad ampliare il movimento che non ci rappresenta. Sono d'accordo con il compagno Mario Lopez Tripa sul fatto che la nostra lotta non è per migliorare le cose, né per ritornare a una forma di governo più giusto. Non concepiamo nessun mal o buon governo, noi cerchiamo di sviluppare le nostre lotte in una prospettiva buona onda. Quello che invece cerchiamo è una rottura totale, ai ferri corti, con tutte le manifestazioni di dominazione, arrivi da dove arrivi, una rottura fino alle ultime conseguenze. Non vogliamo chiedere niente a nessuno. Non vogliamo ma solo approfittare delle condizioni per continuare le nostre lotte, già che ogni corpo assestato al potere ci fa più liberi. Crediamo fermamente che gli attacchi solidari sono la forma migliore di dimostrare il nostro appoggio. Non crediamo nelle unioni per dimostrare la nostra solidarietà, al contrario, desideriamo e sforziamo di mettere in pratica la insurrezione quotidiana e sociale. Essere prigioniero significa essere duro e inoltre riduce abbastanza la quantità di informazione che uno riceve sui fatti che accadono fuori, però questo non impedisce che possiamo esprimere le nostre riflessioni, nonostante l'impotenza per non avere l'opportunità di appoggiare spalla a spalla i compagni, quando vediamo che le condizioni si prestano per realizzare questa insurrezione a cui il momento che molti anarchici tanto dicono di attendere, come propugna l'anarchismo di sintesi o quei rivoluzionari antisistema che dicono di lottare per un mondo migliore, se è così in questi momenti non possono inventare pretesti per saltare fuori da questa eterna attesa e dalla zona di comodità che offre la parola fine a se stessa. Ora si tratta di continuare con la tensione e non permettere che si estingua il fuoco liberatore. Dobbiamo continuare ad avanzare non solo alzando il pugno e la voce, bensì con tutto il corpo e la volontà. E tenendo chiaro che se non c'è un agglomerato di compagni per agire, abbiamo la valorosa opzione di continuare con attacchi notturni e anonimi, con ordigni esplosivi fatti in casa e semplici, ma efficaci, gli obiettivi abbondano. Senza dubbio la vanità e il capitalismo sono soliti essere valori che distorcono la solidarietà, confondendola con azioni banali quali andare a una partita di calcio o concerti musicali, cercando di comparire nelle foto ad essere famosi per un istante o sentire una grande forza momentanea nell'ascoltare un artista o un intellettuale lanciare discorsi facili e applaudire fortemente per poi tornare alla vita. O quelli che dimostrano il loro appoggio comprando una maglietta con qualche piccolo testo senza avere chiaro che con ciò invece di appoggiare una lotta si sta appoggiando l'industria capitalista. E potremmo menzionare molti esempi simili, però questo non succede tra anarchici, o invece sì. Ho chiaro che l'insurrezione deve essere sociale, a fianco della gente, anche se di differente ideologia, partendo dal fatto che la lotta deve essere generalizzata e cercando con soddisfazione individuale, però questo non vuol dire che stiamo cercando alleanze buon anno. Gli anarchici sono estranei ad ogni tipo di alleanza. Considero questa unione solo momentanea ed ha lo scopo di ampliare il conflitto e non recuperare terreno sullo Stato, ma distruggerlo dalle fondamenta. Da questa la mia discrepanza con le alleanze, infatti sono solito essere impossibili dovuto alle discrepanze di principi. Un esempio di discrepanze è l'EZLN, dove si dimostra una evidente contraddizione in quanto molti anarchici o anarco-zapatisti di presunta postura anti-autoritaria appoggiano e si sentono identificati con questo esercito di tendenza Questi anarco-zapatisti si fanno influenzare da molti quali comandare obbedendo, e allora noi diciamo che il comando genera sempre potere e di conseguenza ci sarà sempre qualcuno a cui obbedire, nonostante gli zapatisti dicono che è il popolo che comanda e il governo chi obbedisce. È scontato che non disconosco la lotta che nel 1994 con valore l'EZLN contro lo Stato, guadagnandosi centinaia di simpatizzanti nel mondo per la loro causa. È successo che vari anarchici ci facemmo accattivare dalla sesta di chiave, però presto arrivò la delusione, rendendoci conto che continuava ad essere una pratica autoritaria nonostante il presunto discorso libertario. Qualsiasi esercito, per quanto rivoluzionario si possa dire, anche se si tratta di eserciti neri che ci reclamano presuntamente anarchici, avrà sempre una base autoritaria, maoista o marxista-leninista, che è contraria all'anarchia ed è per questo che considero superfluo e sterili tali alleanze. Vediamo come è necessario prendere le distanze da un certo tipo di sinistra che cerca di ribaltare il potere con lo scopo di sostituirlo con altro, classica teoria marxista-leninista. Per concludere, non vogliamo mettere di menzionare che nell'attuale Unione differenti gruppi hanno dato vita ad attività anarchici, gruppi politici e cittadini, ed anche guerriglie hanno contribuito con azioni separate al conflitto, e come sempre c'è chi cerca di trarne beneficio, come il caso della guerriglia che si sta dedicando a reclutare gente, incluso alcuni anarchici, per ampliare il suo circolo guerrigliero. Promettono addestramento nella strategia militare e logistica di attacco, uso delle armi. È preoccupante che alcuni anarchici si lasciano sedurre e partecipano, andando in questo modo nel senso opposto alle proprie convinzioni, ma forse a volte è mancanza di informazione. Le guerriglie sono avanguardia specializzata che hanno scelto volontariamente la clandestinità come forma di attacco. Dobbiamo avere chiaro che non è necessaria la specializzazione in nulla, perché non siamo professionisti né proviamo ad esserlo. Ci avvaliamo solo di attacchi semplici e permanenti, usando solo il necessario per rendere effettivamente la lotta, in quanto il fine non giustifica i mezzi e non dobbiamo mai perdere la coerenza tra chi siamo e come e perché realizziamo i nostri atti. Carlos López Chivo. E questo era il lungo testo di Carlos, questa critica a una parte del movimento anarchico, che secondo me potrebbe anche essere di attualità in Italia, riferendoci alle lotte sociali come quella NOTAV, una lotta cittadinista fatta insieme a una miriade di entità non. Beh, questo era per quanto riguarda la prima notizia di controinformazione di oggi. Ora ci ascolteremo un brano, New Impression, il brano è The Chrome, e poi dopo si torna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. Ma intanto Ahur si spingeva fino a Vilna, che sarebbe poi Vilnius, e di lì in quella culla vetusta del mondo ladresco della Polonia orientale, dove provvedeva a sistemare i suoi affari. Aveva urgente bisogno di un completo corredo, di perfetti arnesi per scassinare le casseforti. Non erano mica poche, l'acciaio doveva essere della miglior tempra e i succhielli solidissimi. E finì per fabbricarsene una parte egli stesso presso un'officina meccanica il cui proprietario era in segreti rapporti. Lo fece venire da Varsavia servendosi di un dritto che con la sua amante si recava appunto nella capitale per spacciarvi qualche migliaio di dollari falsi. Si trattava di banconote da 20 dollari che la zecca falsaria vendeva per 3 o 4 dollari autentici. Il prezzo oscillava secondo l'acquirente, il quantitativo di valuta acquistata e il misto. Il prezzo era tenuto inizialmente alto, ma poi in genere subiva un ribasso. Nelle campagne della provincia di Vilnius e di quelle vicine circolava un'enorme quantità di valuta falsa e i contadini accantonavano a volte somme ingenti, non sospettando certo di metter via carta stracci. La città era meno facile a lasciarsi ingannare, ma la campagna rimase sempre un ottimo cliente e la falsificazione della valuta americana era diventata una vera specialità di Vilnius che riforniva tutto il paese, compresa la capitale. Ahur si rivolse appunto ad uno degli agenti della zecca clandestina che doveva portare a Varsavia un ingente quantitativo di dollari falsi, incaricandolo di trovargli presso i tecnici della mala varsaviana gli arnesi che non era riuscito a trovare nel nord. L'agente assolse a puntino il compito affidatogli e tornò a Vilna con i pezzi richiesti. Un dritto ce la mette tutta quando si tratta di fare un piacere a un collega, anche se personalmente non ne ricava alcun profitto. E questo, nel mondo dei dritti, non è considerato uno speciale titolo di merito, ma un semplice dovere di reciproco aiuto e solidarietà. Appena avuto gli attrezzi, Ahur li mandò immediatamente a Minsk, per mezzo di un ex collega ormai ritiratosi a vita privata dopo aver sposato una ricca ereditiera. Costui, pur non trovandosi più nella necessità di condividere la vita dei rischi dei suoi amici di prima, aveva però continuato a mantenere buoni rapporti coi dritti che lo giudicavano uno dei loro. E infatti non trascurava alcuna occasione per aiutare gli antichi compagni e sempre lo faceva col più assoluto disinteresse. Neppure il fatto di essere stato una volta derubato egli stesso riuscì a distruggere la sua simpatia per loro. Gli svaligiatori del suo appartamento non sapevano di aver derubato uno dei loro e quando dopo un certo tempo la cosa fu risaputa, vollero a tutti i costi compensarlo dell'ingente danno che aveva subito. Ma l'ex dritto, lungi dall'accettare, invitò a pranzo i ladri, ammirando l'abilità con la quale avevano fatto il colpo e considerò chiuso l'incidente con un brindisi in onore di tutta la mala. Il lavoro che Ahur aveva progettato era molto importante. Nella preparazione aveva messo tutta la sua intelligenza e tutta l'esperienza acquistata in 30 anni di professione. Mentre bighellonava per le vie di Minsk, fischiettando in sordina un'allegra polca, i suoi occhi scrutavano ogni manifestazione della vita della città, scorgendovi un mucchio di cose che chiunque altro non avrebbe mai notate. Collegando i fatti più lontani e insignificanti, almeno in apparenza, egli giungeva a conclusioni che ognuno avrebbe giudicato fantastiche, ma che in seguito si dimostravano esatte. In uno degli edifici del corso del governatore si trovava l'ufficio centrale approvvigionamenti per la provincia di Minsk. Vi erano immensi depositi di merce, l'amministrazione e quel che più interessava Hur, la cassaforte. Durante il giorno una quantità di gente frequentava gli uffici, ma dopo la chiusura degli sportelli la cassa e i depositi erano vigilati da sentinelle armate. La sala nella quale si trovava la cassaforte aveva tre grandi finestre munite di grate e due porte di cui una, dopo le ore di lavoro, veniva chiusa con una spranga di ferro, lucchetti e serrature interne. Dall'interno e dall'esterno la porta era blindata con lamiere d'acciaio dello spessore di parecchi millimetri. L'altra porta, quella interna, rimaneva chiusa ed era vigilata giorno e notte da una sentinella. La sala si trovava al pian terreno. I depositi invece erano sorvegliati da quattro soldati che si davano il cambio con altri quattro ogni due ore. Una sentinella stazionava al portone d'ingresso mentre

le futur, pour les petits durs. Et quel futur entre quatre murs. Et quelle société pour les enragés. Et quelle société pour les gueules cassées. Et quelle société pour les têtes brûlées. Pour les agités, pour les pieds nickelés. Et quelle société pour les verrouillés. Pour les défoncés, pour les détachés. La, la, la. Questo era un brano di Barriera Noir, Vive libre ou mourir. Allora, l'ha letto lui, quindi mi ha tolto le castagne dal fuoco, altrimenti erano cazzi, non c'è, la mia pronuncia in francese è come l'arabo, quindi. Allora, ora si passa, a parte le cazzate, si passa alla controinformazione di nuovo, con un altro scritto di un'altra compagna detenuta, questa volta in Spagna, una compagna cilena, Monica Caballero, sull'ultima ondata repressiva. Allora, leggiamo il testo di Monica. Se potessi scegliere una vita diversa non la cambierei per nulla. Ricordo perfettamente cosa ho provato quando cominciai a interrogarmi sull'autorità. Ricordo le molte contraddizioni e domande. In questo susseguirsi di idee incontrai molti che facevano delle idee pratiche e materiali nelle loro biblioteche, pubblicazioni, università, eccetera. Vivere qui ed ora le idee. Non passò molto tempo perché altri facessero lo stesso. Ricordo l'angoscia che sentii venendo a conoscenza delle molte compagne incarcerate per mettere in pratica l'idea della libertà, sorelle di idee in ogni angolo del mondo, nelle fauci della bestia panottica. Questo sentimento di angoscia non cambiò mai, però lo accompagna il gesto solitale. Siamo molte anarchiche a trovarci dall'altra parte del grande muro. Questa lista martedì 16 dicembre è diventata più lunga. I tentacoli del potere si lasciarono cadere in spazi anarchici, atenei libertari, case occupate e domicili di vari anarchici della Catalogna e Madrid. La battuta di caccia catturò 11 compagni, di questi 7 sono rimasti in prigione, accusati di appartenenza e banda armata di stampo terrorista. Non c'è nessuna coincidenza con le detenute, che le detenute siano a me vicine, in più più della metà mi facevano visita frequentemente in carcere. Le maglie giuridiche poliziesche hanno punito la solidarietà. Non posso fermarmi davanti a tanta miseria, la vendetta repressiva statale sfiora il delirio. I media di informazione, portavoce dei dominatori, parlano di capi e subordinati. Ricordo a questi e a chiunque ancora ha dei dubbi che siamo anti-autoritari. Nessuno sta sopra di me, né io sono sopra a nessuno. Gli spazi attaccati in Catalogna per niente furono arbitrari. Da un lato la Casa della Montagna è un importante simbolo di occupazione, con i suoi 25 anni lontani dalla logica del capitalismo hanno lasciato il loro contributo a moltissime generazioni di dissidenti di questo sistema di terrore. Gli atenei libertari e gli spazi anarchici colpiti mai hanno nascosto le loro idee, offrendo libertà. Il prezzo in questa lotta per il recupero delle nostre vite è molto alto, nessuno dice che sarà facile, però senza dubbio la scelta di una vita diversa non la cambierei per niente. In questa lotta contro il dominio non c'è gabbia né muri che possano far tacere le nostre voci, però senza di voi compagni si trasformerebbero in echi. Se una volta voi amate compagne recentemente rinchiusi potesse leggere queste parole, vi dico che sono certa che si rimarranno in, che rimarranno incorruttibili e al di sopra delle circostanze come sempre è stato. Ricordo tutte le volte che lessi o ascoltai che la solidarietà è un'arma necessaria per le anarchiche. Oggi spero che questi ricordi si facciano realtà, fare delle nostre idee azione. Centro penitenziario di Brevia, dicembre di del 2014, Monica Caballero. E questo era il testo di Monica per quanto riguarda l'operazione Pandora, di cui abbiamo parlato già venerdì scorso nella diretta d'azione. Operazione che ha visto varie perquisizioni e alcuni arresti. Ricordo che su Radiazione potete trovare già la lista di alcuni degli arresti, almeno quelli di cui sono, si sanno, ma andrà ancora aggiornata. I compagni di Croce Nera hanno detto che presto aggiorneranno la lista dei prigionieri in Spagna. Poi per quanto riguarda la Casa della Montagna, io ho un brutto ricordo. Spero che negli anni i miei brutti ricordi risalgono 10 anni fa, spero che in 10 anni la storia della Casa della Montagna sia un attimino cambiata. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Signal Out 42, Time is Coming, Insurrection. Time is coming, time is coming. Maria stava chiudendo il negozio quando si sentì prendere per il braccio e, nello stesso tempo, udì fischiettare pianissimo al suo orecchio un noto motivo. Si voltò di scatto un po' spaurita e si trovò davanti a Hur. Vampe di rossore le colorirono il viso. «Ah, lei è qui, è tornato!» Egli sorrise e annuì senza parlare, guardandola con quel suo solito modo enigmatico. «La prego, non mi guardi così, mi dà un po' fastidio. Vuol forse vedere i conti e dare un'occhiata al negozio?» Ma egli negò col capo, poi stringendole ancora di più il braccio le chiese. «Vuol venire, Maria?» Intimidita da quella situazione nuova e un po' imbarazzante, non si oppose. Entrarono in un ristorante di lusso dove Ahur le apparì d'improvviso in veste di gran signore mentre il cameriere ascoltava rispettosamente i suoi ordini. Durante il pranzo, contro ogni sua aspettativa, fu spiritoso, allegro e brillante. Era tardi quando Ahur si congedò dalla signorina Zapolska davanti al portone di casa sua. Trattenendo tra le sue mani quelle della ragazza, le disse, scandendo piano le parole e fissandola negli occhi: «Lei sa che sono sempre rimasto a Minsk, che non mi sono mai assentato e che non le ho scritto e che nessuno le ha consegnato nulla da parte mia, non è vero?» Essa tacque per qualche tempo, poi disse in fretta, felice di poterlo tranquillizzare: «Ma certo, lei è sempre rimasto qui, non si è mai assentato a Hur. Si faceva vedere quotidianamente in negozio e un giorno disse d'improvviso a Maria: «Le sono grato di avermi compreso a volo l'altro giorno. C'è chi si interessa troppo alla mia vita e io non voglio che lei si procuri un dispiacere procurandone uno a me.» «Oh, signore, lei può star certo che ho capito. La prego di farmi sapere sempre quello che desidera che io faccia. Non dubiti che mi conformerò alle sue istruzioni.» Ahur le strinse forte la mano e nello stesso tempo con la sinistra le accarezzò con dolcezza i capelli. Poi uscì, lasciando la ragazza a riflettere su ciò che il suo istinto le suggeriva. L'indomani a mezzogiorno Baran e Ahur si incontrarono al covo di Zipa. Bevendo birra si consigliarono per 2 ore sui particolari dell'impresa fissata per il sabato seguente. Era il giorno più adatto della settimana, perché di domenica gli uffici rimanevano chiusi e così avevano la possibilità di condurre a termine il lavoro il giorno dopo, nel caso che una sola notte non fosse stata sufficiente. Venne il sabato, 2 ore prima della chiusura degli sportelli, Jan entrò nel cortile dell'ufficio centrale approvvigionamenti portando una valigia piuttosto voluminosa. Senza esitare si diresse a destra verso il reparto contabilità, oltrepassò la porta della sala occupata da questo edificio e proseguì sempre più lentamente. Infine si fermò posando a terra la valigia proprio davanti alla porta della cantina. Tolse di tasca il portafoglio e appena vide spuntare qualcuno finse di cercarvi qualcosa. Aspettava il momento buono per aprire la porta della cantina chiusa con il catenaccio. Dei tre, Jan era quello che poteva attirare meno l'attenzione, anche perché, non essendo ancora pregiudicato, era completamente ignoto alla polizia. Perciò a lui era stato affidato l'incarico di portare gli arnesi per lo scassinamento della cassaforte. La valigia era pesantissima, ma Jan la portava con disinvoltura in modo da non destare alcun sospetto. Perdette quasi una mezz'ora aspettando la possibilità di entrare nella cantina senza essere notato da nessuno. Era il primo e forse il più importante passo da compiere. E finalmente vi riuscì. Il catenaccio cedette e Jan, con una mossa fulminea, sgusciò dentro, rinchiudendo la porta dietro di sé. Rimase per qualche minuto in ascolto, trattenendo il respiro. Non giungeva alcun rumore di passi né dal cortile né dall'ufficio contabilità. Jan afferrò la valigia e incominciò a scendere la scala della cantina. Era buio pesto e faceva anche freddo. Accese la pila elettrica e continuò a discendere portando la valigia con la mano sinistra. Trovò una quantità di barili vuoti di cui Ahur gli aveva parlato e in uno di essi nascose la valigia. Poi risalì la scala e si appostò dietro la porta. Tolse dalla tasca alcuni cunei di legno e ne incastrò uno nella fessura della porta vicino alla serratura, rendendo così impossibile l'aprirla dall'esterno, mentre egli avrebbe potuto farlo dall'interno al momento voluto. guardò l'ora. Mancavano circa 30 minuti prima dell'arrivo dei compagni. Attraverso il buco della serratura poteva vedere una parte del corridoio e del cortile. Era un posto d'osservazione tutt'altro che comodo e con un campo visivo molto ristretto. Avendo però del tempo libero, Jan si mise a esaminare attentamente la porta e notò che in basso mancava un listello di legno. Dalla fessura filtrava dall'esterno un filo di luce e quindi si inginocchiò sul secondo gradino e sbirciò attraverso la fessura, ma poiché anche questa offriva un ben esiguo campo di osservazione si mise ad allargarla col coltello a serramanico, badando a non far cadere schegge dall'esterno. Dopo un po' di tempo il pertugio era sufficientemente largo da consentire la visibilità nel corridoio e anche di una parte del cortile di rimpetto. Ora Jan, seduto comodamente sul gradino, poteva osservare tutto ciò che accadeva fuori. La lancetta dell'orologio stava avvicinandosi all'ora stabilito e quando la toccò Jan vide apparire in fondo al cortile Baran e Ahur. Appena entrati si diressero verso la porta dell'ufficio più vicino alla cantina. Jan sapeva che stavano spiando il momento buono per bussare alla porta dietro la quale egli si trovava. Tolse il cuneo e si immobilizzò nell'attesa. Appena sentì il noto susseguirsi di colpetti, aprì rapidamente la porta e la richiuse subito dietro i compagni, incastrando il cuneo nella serratura. Scesero tutti e tre in cantina e senza perdere tempo si misero subito al lavoro. In silenzio eressero un'impalcatura per poter praticare una specie di botola nel soffitto che permettesse la scalata al piano superiore. Non si poteva lavorare finché non fossero usciti dagli uffici gli impiegati e il pubblico, e anche dopo bisognava stare attenti per fare il minimo rumore possibile. Bisognava assolutamente rinunziare all'uso di scalpelli e di martelli, anche se rivestiti di stoffa. Baran e Ahur dovettero perciò scrostare la volta con la sola forza dei muscoli. Anzitutto praticarono a quadrivelli dei buchi tra le pietre, frantumandole, poi scheggia per scheggia con trapani e leve. Jan, cui era affidato il compito di osservatore, tornò in cima alla scala dove, attraverso la fessura da lui stesso praticata, poté sorvegliare l'esterno finché ci fu luce. Poi, quando il corridoio fu immerso nell'ombra, vi rimase con orecchio teso a ogni minimo rumore. Teneva in mano all'estremità di una corda con la quale, quando lo riteneva opportuno, faceva segno ai compagni di sospendere il lavoro. All'altro capo della corda era legata una bottiglia che era stata messa in fondo ad un barile presso l'impalcatura. Quando Jan dava uno strattone alla corda, la bottiglia provocava un rumore che avvertiva i due scassinatori. Al secondo segnale potevano riprendere il lavoro. Verso le 11 di sera era già stata praticata la vasta apertura nel soffitto e si potevano già scorgere le assi dell'impianto del piano di sopra. Allora Ahur e Baran a turno si misero ad aprirvi dei fori col succhiello e poi a segare gli spazi compresi tra i fori con una siga dai denti minutissimi, scelta appositamente perché quasi silenziosa. Finalmente le dimensioni della botola furono tali da consentire ad un uomo anche robusto di passarvi senza difficoltà. Ahur fu il primo, dopo un attimo di ascolto, ad infilarvisi e constatò che era stata aperta a soli due passi dalla cassaforte come era stato previsto. Rovesciò un tavolo e lo addossò alla finestra, impedendo così la vista della sala dall'esterno. Il locale era immerso nell'oscurità, interrotta soltanto da qualche filo di luce che penetrava dal di fuori. Tuttavia era una buona precauzione perché a qualcuna delle sentinelle poteva venire l'idea di illuminare dall'esterno la sala. Bisognava prevedere tutto. Questi erano God Cycles con il brano Voice Box Botox. Ora si ripassa alla controinformazione, venendo in Italia, dove ci sono ulteriori informazioni sul aggiornamenti sulla situazione alle S2 di Ferrara. Ne avevamo date alcune nella diretta di venerdì, dicendo che ce ne sarebbero state ulteriori, perché la compagna che sarebbe la compagna di Alfredo, facendo i colloqui, ha saputo qualcosa più in particolare. Allora, Lucio arrestato insieme a Francesco e Graziano per l'attacco al cantiere del TAV di Chiomonte è stato trasferito nella sezione di alta sicurezza del carcere di Ferrara. Il trasferimento è una conseguenza diretta dell'accusa di attentato con finalità di terrorismo che la Procura di Torino ha mosso loro circa 10 giorni fa. La Procura di Torino ha ribadito per i nuovi giunti Notav, Graziano, Lucio e Francesco in attesa di processo, oltre a Claudio appena trasferito dopo la sentenza di Torino, con Alfredo e Nicola, definitivi per l'attacco dai mesi scorsi, quando la Procura torinese aveva richiesto lo stesso divieto, puntellandolo con un influsso negativo che i compagni già in carcere avrebbero potuto esercitare sui nuovi arrivati. L'amministrazione penitenziaria ferrarese ha cercato di usare questo nuovo divieto di incontro per suddividere ulteriormente Adriano e Michele da un lato e Alfredo e Nicola dall'altro, a cui i compagni si sono opposti, riottenendo aria e socialità in comune. per i compagni ristretti per il procedimento relativo all'attacco a Chiomonte, sia con sentenza di primo grado che in attesa di processo, non ci sono restrizioni sia tra di loro che con Michele, che fa parte dell'operazione Brushwood, e Adriano per quanto riguarda gli attacchi ai castelli romani. Quando sopra, per ribadire il gioco sporco dei tribunali per creare ulteriori recinti in un ambiente, quello dell'alta sorveglianza, dove già non è possibile alcun incontro con alcuni ristretti nelle altre sezioni. Questo era l'ulteriore aggiornamento. Quest'ultima parte praticamente ribadisce la cosa che avevo detto l'altra volta, che praticamente nelle AS2, sia a Ferrara che a Alessandria, i compagni non hanno alcun contatto con gli altri detenuti comuni, detti comuni per altri reati che non sono di terrorismo, ma sono vari reati in genere. Quindi facendo questa ulteriore forzatura avrebbe messo praticamente in isolamento i vari compagni presenti nelle asse 2. Però da quando si è capito, i compagni si sono un attimo ribellati, hanno fatto sentire la loro voce, e almeno l'aria e la socialità la fanno in comune. E ricordiamo che questa non è una pratica del tutto nuova, che è tipica delle sezioni speciali attuali, perché cose simili si sono verificate con risultati molto, diciamo, con effetti drammatici anche alla fine degli anni 70, quando, diciamo, sì, gli appartenenti alla Rote Armee Fraktion, la RAF, diciamo, tedesca, eravamo in Germania sì, e sono stati scientificamente gestiti in questa maniera. Questi già sono purtroppo ci hanno da fare i processi in videoconferenza, si compagni, in più se ci metti l'isolamento pure tra di loro è la fine. E questi erano gli aggiornamenti per quanto riguarda la S2 sulla condizione, sulla situazione dei compagni detenuti a Ferrara. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Unite 187 con il brano Anger Management, e poi dopo si torna qui con ancora un'altra lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. I'm gonna console! Got it on your console! Baran e Ajur, scalzi, si muovevano come due ombre. La cassaforte, fortunatamente, era invisibile dalla finestra. Ajur decise di sventrare di fianco la cassaforte, perché sarebbe stato più facile praticare un foro nella parte posteriore, ma spostare il mobile, in quelle condizioni, non era neppure pensabile. Dal corpo di guardia giungevano attraverso la sottile porta di legno le voci delle sentinelle. Il loro chiacchiericcio non poteva che favorire gli scassinatori, i quali, con loro grande soddisfazione, poco dopo udirono anche funzionare un rumoroso primus, su cui evidentemente le sentinelle stavano cuocendosi qualcosa. Tutto ciò rendeva superflue delle eccessive precauzioni e consentiva di lavorare con una certa tranquillità. Anzitutto, Ajur tracciò sul fianco della cassaforte la linea di incisione sulla quale, aiutato da Baran, incominciò a praticare dei fori con uno speciale trapano. La forza enorme di Baran, unita all'esperienza e all'abilità di Ajur, facevano procedere celermente il lavoro. Quando la foratura fu finita, venne la volta di tagliare tra foro e foro la corazza d'acciaio. Ajur prese dalla cassetta dei ferri il rack, arnese la cui struttura ricordava approssimativamente quella di una apriscatole, e avvitò alla sua impugnatura una serie di tubi di ferro incastrati l'uno nell'altro, che doveva funzionare da potente leva, moltiplicando straordinariamente la forza dei muscoli di Baran. La punta uncinata del rack saliva lentamente, tagliando satura di acciaio. Quando il taglio fu per tre quarti finito, la parte incisa venne, con lo sforzo poderoso di due paia di braccia appese ad una leva, piegata in giù come una mostruosa lingua protesa in fuori. Ma il lavoro non era che a metà. Per poter penetrare fino alla parete interna della cassaforte bisognava anzitutto tirar fuori la sabbia pressata che riempiva l'intercapedine compresa tra le due piastre. Fatto questo, bisognò ripetere la duplice operazione di prima col trivello e col rack, e finalmente rivoltare, questa volta verso su, la parte tagliata. L'interno della cassaforte era ora accessibile. Bastava allungare una mano. La forza e l'abilità dei due uomini avevano avuto ragione delle formidabili difese erette dalla tecnica a protezione delle ricchezze appartenenti a gente che forse non era stata meno disonesta nell'accumularle di quanto lo fossero a sottrarle quei due uomini spinti alla delinquenza, dalla malvagità e dall'egoismo, non loro, ma dei loro simili. Intanto, per Jan, addetto alla sorveglianza, le ore scorrivano lente e snervanti. Il silenzio era tale che udiva il ticchettio del proprio orologio e gli pareva di udire il rombo del sangue nelle orecchie. Ogni tanto la monotonia dell'attesa era interrotta dai passi delle sentinelle che passavano e si allontanavano. Durante tutta la notte non ci furono che due soli momenti di allarme. La prima volta, quando qualcuno, entrato nel corridoio, salì la scala che conduceva al piano di sopra, e la seconda, più emozionante, quando una sentinella si avvicinò alla porta della cantina strascicando i piedi, vi si appoggiò per un attimo facendola cigolare, tossì, si raschiò la gola e sputò per terra, passando finalmente oltre. Aspetta a sputare domani, pensò Jan, tirando un sospiro di sollievo. Quando la cassaforte fu completamente svuotata, Ajur tirò fuori dalla valigia un pacco di viveri, riponendovi invece gli arnesi. Il posto rimanente venne riempito coi plichi di banconote, quelli che non ci stavano. Ajur e Baran se li cacciarono in tasca, dopodiché si guardarono attentamente intorno per non lasciare assolutamente nulla che potesse indiziarli. Infine Ajur passò uno straccio bagnato sulla cassaforte e su tutto il tibisce, verniciate e lucidate, per cancellare ogni minima traccia delle impronte digitali. Quando tutto fu compiuto, fuori incominciava ad albeggiare. Ajur e Baran si calarono attraverso l'apertura nella cantina sottostante, lasciarono intatta l'impalcatura e, chiamato Jan, svolsero il pacco facendo luce con la pila elettrica. Dopo aver bevuto qualche sorso di vodka e mangiato dei panini imbottiti, fecero un po' di toiletta per avere l'aspetto più decente possibile. Intanto che attendevano l'ora più propizia per uscire, discussero insieme il modo migliore per risolvere anche quel problema dal quale dipendeva ormai il buon esito dell'impresa. Infine decisero che Baran e Ajur sarebbero usciti separatamente l'uno dall'altro senza avere nulla nelle mani per non destar sospetti. A Jan invece venne affidato il compito di portar fuori la valigia. Era un'impresa molto rischiosa perché la sentinella che era di guardia al portone avrebbe potuto anche fermarlo benché le lunghe osservazioni che aveva fatte a Jur lo escludessero, dato che alcune famiglie di impiegati dell'ufficio approvvigionamenti abitavano nello stesso edificio ai piani superiori e la gente andava e veniva continuamente senza destare l'attenzione della sentinella. Verso le 8 del mattino Ajur uscì dalla cantina. Un quarto d'ora dopo sgusciò fuori anche Baran. Prima di aprire la porta strinse la mano a Jan e con una voce che suonò diversa dal solito gli disse: «Fa attenzione, ma soprattutto calma. Se dovesse succedere qualcosa, la valigia non è tua e tu non hai la chiave». Era evidente che lo preoccupava la sorte del ragazzo. «Non temere, io me la caverò», rispose Jan. Rimase per un po' di tempo in attesa dietro la porta, pronto ad aprirla al primo istante favorevole. Sull'ultimo gradino della scala Ajur aveva deposto una lattina con un liquido denso nella cui composizione entravano il catrame e la trementina. Così i cani poliziotti non avrebbero potuto trovare facilmente le loro tracce. A un certo punto Jan udì un rumore di passi. Della gente stava scendendo le scale, parlando ad alta voce, guardando attraverso la fessura vide che il gruppo era composto da un uomo, tre donne e due bambini. Non appena furono usciti tutti in cortile, Jan aprì rapidamente la porta richiudendola subito dietro di sé, non senza aver prima versato il liquido sulla soglia e giù per la scala. Con un'aria sorridente e spensierata si avviò verso il cortile reggendo la valigia come se fosse la più leggera del mondo e raggiungendo di corsa il gruppo che si dirigeva verso il portone. Una delle donne aveva preceduto gli altri e stava parlando con la sentinella che rideva. Alle spalle dell'uomo, fermatosi ad accendere una sigaretta, Jan uscì in strada senza che nessuno dei presenti badasse minimamente a lui. Solo allora, quando fu fuori pericolo, avvertì quanto fossero tesi i suoi nervi. Percorse a piedi un tratto. Poi fece segno ad una carrozza di fermare, discuse sul prezzo, anche questo era stato previsto, e si fece portare verso il mercato basso. Scese un tratto prima di giungere a destinazione, entrò in un portone e quando udì allontanarsi lo strepito delle ruote, ritornò sui propri passi e fece a piedi l'ultimo tratto di strada fino al covo della zipa. Trovò Baran e Ajur nel locale più interno, erano visibili, la loro gioia e il loro sollievo quando lo videro apparire. Anch'essi erano giunti in carrozza per non offrire anche in questo particolare un indizio ai cani poliziotti che certamente sarebbero stati sguinzagliati sulle tracce degli autori di un così sensazionale colpo di mano. Jan raccontò come fosse uscito dalla cantina. Baran lo ascoltava senza aprir bocca, ma i suoi occhi si rivolgevano spesso su Ajur. «Che te ne pare, eh?» sembravano chiedere al famoso maestro dello scasso. «Non è stato in gamba questo ragazzo?» Quando Jan terminò il suo racconto, Ajur si mise a fischiettare, visibilmente soddisfatto. Poi, imitato subito da Baran, buttò sul tavolo i plichi di banconote. A questi vennero aggiunti anche quelli che erano stati messi nella valigia portata in salvo da Jan. Baran e Ajur si misero a fare i conti, cosa del resto assai facile, perché ogni plico era provvisto di una fascia di carta sulla quale era indicato l'ammontare della somma che vi era contenuta. Tuttavia, i plichi erano talmente numerosi che anche questa operazione richiese un certo tempo. Mentre i due amici erano intenti a questo lavoro, Jan si chiedeva se gli avrebbero dato la terza parte del bottino o solo una certa percentuale. Si rendeva conto che la sua cooperazione era stata assai meno decisiva di quella dei suoi compagni e perciò si rallegrò moltissimo vedendo che Ajur divideva il tutto in tre parti uguali. Sentì crescere il proprio prestigio ai suoi stessi occhi, dunque

È già passato un anno da quando Fernando Basenas è stato a una manifestazione contro l'aumento della tariffa della metropolitana. Il costo aumentò repentinamente da 3 a 5 pesos messicani in un paese dove ricordiamo che il salario minimo è fermo ai 60 pesos giornaliero, meno di 5 dollari, e dove la estensione della città mostro obbliga migliaia di persone a spostarsi da un lato all'altro continuamente. Alla fine di quella marcia del 15 dicembre 2013 fu lanciata una molotov contro l'enorme Coca-Cola che bruciò per la gioia generale, illuminando Natale nero. Il Natale nero, il famoso Natale nero, illuminando quella notte su due delle arterie principali della città, Reforma e Insurgentes. In seguito vennero detenute tre persone, tra cui Fernando, mentre le altre due vennero scarcerate in quanto minori d'età. Il passato 11 dicembre Fernando viene condannato a 5 anni e 9 mesi con l'accusa di attacco alla pace pubblica e associazione a delinquere. Ora leggiamo, dopo questa breve nota su Fernando, leggiamo il suo testo. 15 dicembre 2014, agli spiriti liberi e ribelli, agli oppressi e marginati, alla gente in generale. Oggi ho compiuto ufficialmente un anno di carcere. Il 10 dicembre 2014 sono stato condannato a 5 anni e 9 mesi di carcere con l'accusa di attacchi alla pace pubblica e associazione a delinquere. Queste accuse sono state argomentate con nient'altro che semplici supposizioni e senza prove reali che accettano la mia colpevolezza. Per quel che riguarda il reato di associazione a delinquere, l'unica cosa che sostiene l'accusa è che portavo con me materiale di protesta e rivendicazione anarchica, rendendo chiaro che questa è una criminalizzazione, gliela faccio, ideologica, che tende a diffamare e screditare le idee anarchiche e libertarie. Storicamente in tutte le epoche vengono occultate con una serie di idee, pensieri e informazioni essere pensate dagli individui di tali società. Tuttavia ci sono sempre persone e individui che ci rifiutiamo di essere alienati e che, non conformi con ciò che è permesso di fare, essere e di pensare, abbiamo deciso di rischiare la nostra vita alla ricerca di una libertà autentica. E quando abbiamo affrontato i mali sociali prodotti dalla gerarchia, ci hanno chiamati autori del disordine e ci hanno mandato a popolare le prigioni. Senza dubbio la ribellione non finisce in carcere, è proprio in carcere dove il ribello si determina completamente e ogni dubbio e contraddizione che poteva esserci nei suoi pensieri si dissipa, finisce con rafforzarsi e diventa ideologicamente più forte. Entrando in carcere determina un ciclo di lotta per iniziarne uno nuovo. Determina un ciclo di lotta, ma questa volta più radicale, contundente e completo, che cadano i muri e che la libertà continui il suo percorso saremo tutti liberi. Fernando Barcenas. E questo era il testo del compagno messicano, che purtroppo non capisco perché per molto tempo non si è saputo niente. Si era saputo che c'era stato qualche arresto per l'incendio dell'albero di Natale, però non si era saputo che praticamente Fernando Bersenes, uno dei tre arrestati e poi l'unico, perché gli altri due sono stati scarcerati, fosse un compagno anarchico. Questi sono i misteri della controinformazione, purtroppo. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di Santa It's You, Fight Truth K, e poi dopo si torna qui con l'ultima lettura per oggi di Nessuno ci salva, di Sergio Piasecki. Can the truth be forever hidden? L'indomani e per parecchi giorni ancora tutta la città non parlava che del sensazionale furto compiuto da ignoti ladri nell'ufficio approvvigionamenti. La polizia, sguinzagliata in tutte le direzioni, perlustrò tutti i quartieri malfamati di Minsk, i covi e i locali equivoci, operando a casaccio arresti e fermi e facendo intere retate di presunti sospetti. La somma rubata si moltiplicò nella fantasia eccitata del pubblico, diventando addirittura favolosa, ma né il denaro né gli autori del furto vennero rintracciati. Perfino la mala ignorava i nomi degli audacissimi scassinatori, solo i dritti più esperti collegarono il fatto con l'apparizione a Minsk del celebre Ajur. Ma naturalmente nessuno fiatò. Baran e Jan invece erano al di sopra di ogni sospetto. Qualche giorno dopo, Ajur, vestito con eleganza come sempre, con un paio di occhiali sul naso e una canna, Petropavlovsk, giunto all'altezza del cinema Lux, attraversò la strada dirigendosi verso il negozio di fronte. Rimase un momento ad ammirare la vetrina. Non erano esposti che pochi giocattoli, eppure chi li guardava aveva la sensazione che il negozio fosse ben fornito e tenuto da una persona di molto buon gusto. Fischiettando come al solito, Ajur spinse la porta a vetri. Maria, che sedeva dietro il banco, balzò in piedi appena vide il padrone. «Oh, benvenuto!» disse, visibilmente contenta di vederlo. Ajur alzò le sopracciglia e sorrise. «C'è qualcosa di nuovo?» «No, ma io», balbettò la ragazza arrossendo. Ajur la fissò negli occhi, poi il suo sguardo scivolò lungo la sua figurina ritta dietro il banco, soffermandosi per un attimo sulla piccola mano dalle dita affusolate, poi, senza una parola, uscì dal negozio. Sa tutto, si disse. Rimasta sola, Maria si abbandonò sulla sedia mentre gli occhi le si riempirono di lacrime. Due giorni dopo, Ajour ritornò al negozio. Attese che i clienti che vi si trovavano fossero usciti e poi disse: «Bisogna che liquidiamo il negozio». Maria lo guardò un po' stupita. «Ma come? È un peccato! Beh, ne apriremo un altro in via Zakarievska. Ho già trovato un bel locale e intesterò tutto a suo nome, così sarà lei l'unica proprietaria». «Ah, capisco», mormorò Maria. Ajour aveva intenzione di investire il capitale da poco realizzato. La sua vita era troppo esposta ed egli viaggiava continuamente. Gli premeva dunque di affidare tutto ad una persona di fiducia, assicurandosi un solido punto d'appoggio per l'avvenire. E nella ragazza egli vedeva ciò che aveva sempre sognato nella sua vagabonda esistenza: una donna buona, devota, sulla quale potesse sempre e comunque contare. Due settimane dopo, una nuova cartoleria fu aperta al pubblico in via Zakarievska. Il negozio di giocattoli venne messo in liquidazione e il nuovo esercizio intestato al nome della Zapolska. Maria assunse una giovane commessa che all'occorrenza fosse in grado di sostituirla. Ora poteva anche affidarle il negozio e occuparsi degli affari, andando personalmente ad acquistare la merce. Il negozio comunicava con un appartamentino di tre locali che Ajour aveva fatto ammobiliare e arredare apposta per lei. Egli continuava a vivere in albergo. Circa una settimana dopo l'apertura del nuovo negozio, Ajour vi si recò una sera, passando poi nelle stanze della Zapolska. Le chiese di preparargli una tazza di tè e, prima di andarsene, le consegnò una scatola di metallo. «Qui dentro ci sono 5.000 rubli monete d'oro. La nasconda bene. Forse il posto più adatto è il corridoio che conduce in cantina vicino alla porta». E le disegnò su un pezzo di carta il punto preciso. Maria comprese subito di che si trattava. «Inteso», rispose. «Lei che intenzioni ha?» «Io parto per Smolensk. Mi ci fermerò una settimana». «Ma non è pericoloso così vicino al confine quei bolscevichi?» Ajour la guardò gradevolmente sorpreso. «Ma non ci pensate proprio, io me la caverò, devo salvare un compagno, un caro amico, capite? Maria, a noi!» Ajour si sentiva sempre più a suo agio in compagnia di quella brava e intelligente ragazza che lo capiva così bene e nella quale riponeva la più illimitata fiducia. Altro che denaro! Le avrebbe affidato senza esitare la propria vita. Come aveva sistemato bene la sua casetta. Tutto era così accogliente, così lindo lì dentro. Era bello stare lì insieme a lei. Si congedò assai tardi. Sapeva che se avesse voluto, avrebbe potuto restare con lei e fare di lei la sua amante, ma aveva troppa stima di Maria per trattarla con leggerezza. Sarebbe stato troppo banale iniziare così un'intimità. No. Ciò che un cuore offre deve essere accettato con il più grande rispetto, si disse, e uscendo le baciò la mano. Yeah. Anche Baran aveva acquistato dell'oro. Non aveva fiducia nelle banche e nei governi responsabili che garantiscono la stabilità della moneta. Tuttavia, si guardò bene dal mostrare a Pavka l'oro che aveva acquistato. Quando giunse la sera, si recò a far visita al fedele caro. Ne spostò la cassetta e, servendosi di un coltello, scavò una buca nella quale depose una borraccia tedesca d'alluminio piena di monete d'oro. Riempì la buca di terra, pressandola coi piedi, vi tirò sopra il canile e spazzò intorno il terreno. Poi si chinò ad accarezzare il bastardo. «Fammi bene la guardia, caro! Tu sei l'unica creatura che mi ispiri fiducia!» A Pavka regalò un bel orologio da polso. Essa lo ringraziò con effusione e subito cercò di sapere come avesse potuto comprarlo. «Hai fatto un bel colpo, tesoro!» «Ah no, l'ho comprato!» E non aggiunse altro. Continuò a dare a Pavka il denaro che gli chiedeva, ma non più di quanto era necessario al normale andamento della casa e ai bisogni di lei. L'unico che non sapesse che cosa farsene di tutti quei quattrini era Jan. Li nascondeva qua e là nella cantina e il solaio, li contava e li ricontava, li teneva tutti assieme e li divideva in somme più piccole. Insomma, era incapace di sistemarli in modo definitivo. Comperò una quantità di bella roba alla madre, a Ella e a Maruscia, ma non si decideva ad affidare a qualcuno il grosso capitale per il timore di suscitare sospetti. Finalmente pensò allo zio Zardon come alla sola persona che potesse aiutarlo in questa delicata questione. Si recò subito da lui e lo trovò che lavava in un mastello delle bottiglie che aveva intenzione di vendere. «Ciao zio! Stai diventando proprio un uomo d'affari, eh?» lo canzonò adottando il tono burlesco di Zardon. Questi brontolò qualcosa senza interrompere il suo lavoro. «Hai intenzione di aprire un ristorante o una farmacia?» «Ma a te che cosa te ne frega di te, di quello che faccio io?» «Avevo una mezza intenzione di entrare in società con te.» «Su, allora rimbocca le maniche e dammi una mano a lavare ste bottiglie.» «Non mi va mica di bagnarmi le mani, e poi è un lavoro da donne o da vecchi?» Zardon si rabbuiò. «Senti un po', ma sei venuto qui per farmi saltare la mosca al naso? Aspetta che ti benedica a son di legnate, come si usa tra i cinesi.» «Non te la prendere subito, scherzo. Sono venuto a consigliarmi con te.» «E per che cosa?» «Tempo fa mi hai parlato di un tale Orsha che non è il diavolo ma ha stretti rapporti con lui.» «Ma che stai dicendo? Non mi interrompere. Dunque, a quanto pare quel tale può aver denaro finché vuole da Satanasso, basta che glielo dica, non è così?» «Ma si può sapere dove vuoi arrivare?» «Ecco, anch'io ho fatto combriccola col diavolo e lui mi ha dato un mucchio di soldi.» «Senti, non farmi girare le scatole, guarda.» E Jan cominciò a tirare fuori dalle tasche i plichi di banconote. Lo zio piantò lì le sue bottiglie e si mise a guardare stralunato il nipote. «Ma e da me che cos'è che vuoi?» rantolò alla fine. «Vorrei che mi impiantassi un'azienda o qualcosa di simile con sti soldi. Mi spiacerebbe che a restar lì senza impiegarli andassero in malora. Lo faccio per l'avvenire della mamma e di Ella. Pensaci tu, zio, sai che io non me ne intendo di affari.» La conversazione prese allora subito una piega seria e il risultato fu che una settimana dopo, sulla collinetta venne acquistata dallo zio, a nome della madre di Jan, una piccola casa con giardinetto, e nelle vicinanze della fiera dei cavalli nel vicolo sassoso sorse una nuova trattoria di cui era il factotum lo stesso Zardon. Cicogna, un giovane di equivoca esistenza anche lui, tutto computo e grave, si pavoneggiava dietro il banco. Era un locale che, pur essendo di secondo ordine, divenne in breve il più frequentato del quartiere. Era stato deciso di comune accordo che gli utili sarebbero stati divisi in due parti uguali tra Jan e lo zio. «Tra un anno avrai recuperato il capitale fino all'ultimo centesimo», gli diceva Zardon al nipote. E fu così. che anche questa parte della grossa area furtiva dell'ufficio centrale approvvigionamenti fu convenientemente investita. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.